Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Cicci, ciccio, cicciola, ciaccia. Cicci, ciccio, cicciola, ciaccia. Sei come la luna che splende quando è piena. Oh, oh, oh, cicciona, tu mi piaci così, coi baci d'amore. È chiaro che il termine in sé è dispregiativo. Dire bella cicciona, sì, lo so, ma è come se fosse qualcosa che fa parte di un repertorio di stranezze, di singolarità, qualcosa che riguarda l'estro momentaneo, perlomeno una sorta di predilezione che ha qualcosa di atipico, di innaturale. Sì, per quanto ci prendiamo in giro, questa è una società che mira alla secchezza, all'anoressia, all'asciuttezza. Ah, che bella persona asciutta. Ah, guarda quanto è magra. Le donne non fanno altro che in questo momento, in questo particolare condizionamento, in questa fase della nostra passaggio esistenziale nel mondo occidentale, economicamente più o meno avanzato e apparentemente civilizzato, che seguire un sogno di leggerezza fisica, come se la leggerezza fisica corrispondesse a una sorta di estasi interiore corrispondente. Non è così. Più le donne sono istigate ad essere leggere, magre, scarnificate, e più in realtà sono appesantite. Io mi porto sulle spalle ancora i segni tangibili, concreti, le ferite profonde del mio essermi voluto per un periodo della mia vita prendere il peso delle donne sulle spalle. Le sollevavo, è notorio, ancora ogni tanto sento dolore alle spalle, alla spina dorsale, proprio questa mattina, perché a un certo punto ho detto le donne devono essere leggere, al di là del loro peso fisico, quindi me le prendo sulle spalle, quindi mi prendo il loro peso. Queste sono belle parole, ma se oggi vi dico che vorrei che il pubblico mi parlasse chiamando all'800240024 dell'estasi e del tripudio della carne, probabilmente suonerebbe come una sorta di istigazione alla depravazione. Ma siete sicuro che sia così? Che diavolo fai? Mi sto vestendo. Perché saltelli travestita da fantasma? Perché non voglio che tu veda le mie ciccette sballonzolanti. Tesoro, ma questo è un comportamento davvero paranoico, perché io sono affezionatissimo alle tue ciccette sballonzolanti. Davvero? Assolutamente sì. Dai, fammi dare una sbirciatina. 800240024. Questa mattina vorrei sfatare quel mito politicamente corretto che bisogna parlare delle donne abbondanti di carne come qualcosa che sì, comunque ha il suo diritto di esistere. Le chiamano curvi quando abbiamo una sfilata di moda curvi. In realtà sono delle semianoressiche che semplicemente hanno un po' di ceccetta qua e là, perché nei confronti degli scheletri ambulanti possono essere considerati. Io sono stanco, sentimi dire dalle mie amiche, sono orribile, non mi posso guardare. Le guardi, dicono, cosa c'hai di male? Ma guarda come mi sta stretto questo vestito, guarda, non mi entra questa cosa, guarda come sono. Vi donne normalissime, anzi al limite della decenza fisica. Beh, esiste un pubblico maschile che può ridare conforto, può lanciare una crociata concreta e reale, farebbe anche del bene all'umanità. Non voglio citare notizie del genere nella loro nel loro crudo dettaglio, ma anche pochi giorni fa una ragazza ha tentato il suicidio perché a scuola la prendevano in giro, sei grassa. Beh, questa mattina voglio dare una chiara e non corrotta dalla necessità di essere politicamente accettabile testimonianza di donna felicemente abbondante. E questo è qualcosa che non è soltanto un delirio onirico, è una realtà, perché il primo libro di Caterina Cavina, Le ciccione lo fanno meglio, un libro che ha venduto decine di migliaia di copie, molto più dei libri pipposi di tante illustri e specchiate giornaliste che ci parlano del rispetto del corpo delle donne, lecito, sacrosanto, verissimo. Sì, però una donna che scrive che quanto lo faccia meglio le ciccione ha creato una sorta di standing ovation nel pubblico dei lettori. Beh, Caterina Cavina ci riprova e uscirà tra qualche giorno con il libro Le ciccione lo fanno sempre meglio. Questo vuol dire che nell'arco di pochissimo tempo si è specializzata. Caterina Cavina, buongiorno. Buongiorno. Beh, stai già ridendo, non c'è niente da ridere. No, ma perché sulla mia specializzazione c'è molto da ridere, credo, no? Bisogna vedere se entrare nei particolari, nei dettagli, non so se sono dettagli che posso no. Lambire in questa fascia semiprotetta. No, ma sa, una volta quando eri piccola ti dicevano studia che nella vita è importante specializzarsi, ho fatto così, tutto qua, per quello mi veniva da ridere. E tu sai, hai una sfrontatezza che va oltre ogni regola umana. Il tuo primo libro, come ho detto, sempre per Baldini e Castoldi, esce il 20 novembre in libreria. Sì. Il tuo libro aveva venduto quello precedente, il Ciccione lo fanno meglio, 35.000 copie, tanto sì. per sottolineare il fatto che si tocca un ambito che è ammantato di decente pudicizia, di fantastico rispetto, quando in realtà non è mai affrontato in maniera concreta. La sì. Caterina Cavina ha messo su Facebook delle foto debordanti, lei completamente nuda, che ho appena rilinkato, quindi le trovate anche sul mio profilo, in cui è una bellissima donna abbondante, nuda, ombreggiata, sì, nelle parti ombreggiabili, però è nuda completamente. Ecco, sì. Da cosa nasce questa sorta di sfrontata orgoglio delle forme abbondanti? Ma io non, sinceramente c'è già una cosa a priori che devo dire, io non è che mi vedo come abbondante, io sono il mio corpo, e ho incontrato un fotografo che mi voleva fotografare e l'ha fatto, punto. In quel momento non mi sono sentita né una donna che stava mostrando qualcosa di sé, né una donna grassa, niente, mi sono sentita io che mi mostravo come volevo, come mi piaceva. Vabbè, una tua tetta fa 10 modelle delle più rinomate, quindi mostri molto. Sì, sì, ovviamente ce n'era da mostrare. Tutte ecco. Insieme, come, dico, dalla testa ai piedi. Infatti era un fotografo di paesaggi quello, fotografa le lande della Bassa, si chiama Giuliano Gardenghi, le paludi, io sono della Bassa Emiliana. Poi ha visto me e ha detto ce la posso fare, perché forse l'estensione era tale. E comunque riguardo invece quello che... Hai detto, è vero, ci sono molti pregiudizi, molte pruderie e anche e soprattutto molti stereotipi. È la finta osservanza, dire ma sì, non ti preoccupare. Ti faccio un esempio, guarda, io ho davanti lo scorrere degli SMS. Lambisco sì. L'ultima coda della trasmissione che mi precede, che è dedicata appunto al benessere sì. fisico, e parlavano di diete, e c'è tutta gente che domanda sulla glicemia, sul digiuno. Sì. Immediatamente dopo il primo messaggio a seguire della nostra missione è un ascoltatore che dice: mio nonno diceva i peccati si fanno di carne e non di ossa. Chris da Genova: se l'uomo piace l'osso non è uomo, viva la ciccia, Emiliano. E poi andando avanti, quindi siamo esattamente in clima, e parla Teo, buongiorno. Buongiorno. Allora, comincia a declamare quello che è il tuo punto di vista. Ma io sono contentissimo di intervenire in trasmissione per poter dire la mia. Una ragazza di oltre 70 kg. Vabbè, che è grassa, 70 kg, scusa. Aspetta, però molto piccolina. Cioè, beh, se alta 60 centimetri, sì, ma se no... No, si sentiva sempre grassa, quando si metteva qualcosa, mio Dio, è troppo attillato, però effettivamente in camera da letto, io ho avuto anche delle ragazze veramente magre, eccetera, la ciccia conta. Certo. Avere quel le ossa fa le scintille, piccolo così. Sodo che la gente pensa sia la perfezione, magari le modelle, eccetera, è ossuto, non dà soddisfazione. Però Teo, non... Fai in modo che non vengano con i forconi qua sotto al portone. Non ne parliamo solo in termini di oggetti di piacere sessuale. Anche questo è una componente importante, l'essere umano. Ma io pensavo che oggi la trasmissione fosse di Ciccione, lo fanno meglio. Sono perfettamente d'accordo. Sì, con ma questo è uno dei punti. Su questo siamo d'accordo. Almeno si rivendica questa cosa. Ma quello che vorrei dire è che lavorare sul modello estetico corrente, su che base è appoggiato questo modello estetico? Caterina Cavina, cosa significa sentirsi completamente antitetica rispetto a quello che viene nell'epoca in cui ti è stato dato di nascere, di crescere e di guardarti certo. intorno, il modello estetico corrente? Questo è l'importante. Certo, ma a un certo punto, parlo di un discorso personale, c'è bisogno di formarsi, ma tutte noi donne, una forte identità. Perché appunto il modello che viene proposto è abbastanza irraggiungibile, perché lo sappiamo benissimo, sono persone, donne molto alte che pesano come una bambina di 8 anni, che appunto 38 è la taglia corrente, 40, come citavi tu, una curvy è una 46 alla fine, cioè una donna normale, una modella oversize è 46-48 massimo, e lo so benissimo perché molte mie amiche bellissime hanno fatto casting per note case di moda che per un po' lavarsi la coscienza facevano la stilata curvy, no? Sì, che è la parola che odio. Presa, sì, sì, è ancora più una presa per in giro. No, quella, una presa per il culo totale, perché sono esatto, perché vuoi fare semi anoressiche e fanno passare per donne curviformi. Esatto, le donne normali, una 46, una, ma dico proprio medicamente normale, una 46, una 48, vengono fatte passare come casi, come concessioni, mentre l'anoressia è la normalità. Ma Caterina, come si esce da questo impasse? Noi ci abbiamo scherzato perché... No, lo sai qual è l'impasse? Che si dica soltanto, la donna abbondante piace soltanto agli uomini, come l'ascoltatore prima, che vogliono la sostanza. Ma può esserci qualcos'altro oltre che la sostanza, che avrà il suo peso senz'altro. No, ma piace la personalità, bisogna formarsi una forte identità. Come hai detto te, io sono nata, cresciuta e vissuta, io soprattutto ho avuto l'adolescenza negli anni 80, quindi l'epoca delle supermodelle, no? E adesso penso sia ancora peggio. Io sono un 80, ho un bel viso, sono una bella donna, però sono ciccia. Molto. Sei alta ciccia. Comunque, un 80 è sì, una bella dimensione. Però peso 120 kg. E quindi niente, cosa io semplicemente lo dico sempre, lo dico spesso, è mettere tante altre parole di fronte all'aggettivo grassa. Cioè quando tu hai 16, 17 anni, ma anche purtroppo adesso 30 e 40, la prima cosa... A te da ragazzina ti prendevano in giro? Ma chiamavano... Ferma un attimo, Caterina, ferma un attimo, perché stanno chiamando soltanto uomini allupati. Allora, mi signore... chiamavano la Turina. La Turina, è che allora era il modello. Oggi l'ho incontrata poi in TV e l'ho abbracciata con molto affetto. La Turina, tu sei giovane, non so se ti ricordi, fece una volta un servizio, che sto scandalo divertentissimo, su Playman, lei nuda. Apparve nuda su Playman, che fece un gesto rivoluzionario per gli anni 70. Perso. Allora, donna in ascolto, ferma adesso, zitta un attimo. Donne in ascolto, 800240024, non lasciate lo spazio soltanto ai maschi con la bavetta, dateci qualche supporto a ciò che dice la vostra portavoce, la vostra caposcuola, la scrittrice che ha venduto decine di migliaia di copie di un libro, che dice semplicemente sono abbondante rispetto al modello attuale, ma in assoluto ho le caratteristiche perfette per essere una donna piacente, interessante, intelligente, non soltanto per quelli che mi chiamano dicendo naturalmente amo le ciccione perché lo fanno meglio, ma anche il sugo, non so cosa possa significare. Melog, cronache meridiane. Ah sì, i vostri sono questi. Come questi? Ma qua mia moglie non c'entra manco de profilo. Beh, fai pigliare solo una chiappa al giorno. Come dite voi a Oxford. Ah, ma questo che è? È il disco orario, no? Ma che non ci sei mai stata al mare? Oh, ma mica sono a macchina io! No, se ne ho avuto botte! Senti un po', e come mai tutti questi signori al disco orario non... Ecco, questa era Luciana Turina, per chi la rimpiangesse, in un film con Pippo Franco. Mi stanno arrivando molti messaggi, naturalmente molti dicono non potete fare certo la pubblicità, l'obesità, che è una patologia, ma non vedrei soltanto in chiave patologica. Vorrei nel diritto di una persona di poter avere il suo peso, determinato probabilmente da qualsivoglia ragione, anche semplicemente da una struttura fisica, che è abbondante, senza doversi sentire per forza qualcuno da additare, qualcuno si prende i sorrisini dietro, qualcuno che diventa, al contrario, anche se ciò può sembrare piacevole, oggetto di attenzione soltanto perché c'è questa fantastica, misterioso alone leggendario, non so, dell'odalisca, del piacere sibaritico e dei proverbi innominabili che mi stanno mandando i miei ascoltatori, tra cui l'incitabile donna senza culo, alpino senza mulo. Giuliana, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo da Firenze. No, volevo intervenire su questa discussione. Purtroppo vediamo dei modelli troppo irraggiungibili, anche i bambini, dicevo io prima che ho una bambina di 11 anni e mezzo che grazie a Dio non fa parte, diciamo così, delle cicciottelle, è una bella bimba, però vedo che quando c'è qualche bambina che è un po' più grassoccella, già loro la ditano come lei è ciccione, è grassa, ma ho anche un'amica che è alta 1,80 m ed è magra e lei ogni volta si permette di dire: ma quella è una cicciona, ecco. E, ma ammesso non concesso ci fosse un problema di metabolismo, di dieta sbagliata e via dicendo, non mi sembra un motivo. Voi direste mai a uno: è un claudicante, se è uno zoppo, non convede se è un guardi, cieco. Cioè, io sono anche io. Ammesso che sia questo, non dico. Infatti, cioè, io insegno a mia figlia che le persone vanno amate, vanno rispettate per quello che sono, no? Perché hanno, che sono delle modelle o sono grasse. Cioè, mi sembra saggio Giuliana. Caterina Cavina, ricordo, le ciccione lo fanno sempre meglio, sì. Baldini Castoldi, che uscirà fra pochi giorni. Vediamo di trovare una via definibile e accettabile per far capire esattamente il problema. Poi il tuo libro, se vorranno, lo leggeranno, entreranno nello specifico di capire il perché, però mi interessa la filosofia essenziale, perché i salutisti continuano a scrivere dicendo: ma tu stai facendo pubblicità ai bambini, no. Non è questo, cerchiamo di capire il vero, il giusto punto di vista rispetto al modello estetico, la libertà di poter incarnare il modello estetico che maggiormente corrisponde alla nostra visione della vita, alla nostra felicità. Ma io vorrei partire da fare un esempio. Quando è uscito il primo libro, come sono stata trattata dai mass media? E appunto lì ho visto proprio la dicotomia, cioè o panzona buontempona, quindi allegra, divertente, o oggetto del desiderio, come dicevi te, più o meno malsano. Ecco, un'immagine, chissà questa cosa potrà... Ci sarebbe, no, sì, ma lì ci sarebbe da aprire un capitolo, perché ho ricevuto anch'io molte richieste, anche di conferme del titolo del libro, che poi è un'iperbole, una provocazione. Ma è chiaro, lo so. No? E, nulla è più difficile che spiegare le iperboli, cara, lo so. Sì, lo so, e tutti dicevano, sì, tu sei per l'orgoglio obeso, tu sei convinta di questo e di quest'altro. Altro, gli uomini tutti ci provavano e questo perché appunto non e però tu, come dire, rientravi nelle passioni compulsive. Quanti uomini in rete ci provano con donne grasse e poi gratti scopri che sono sposate con donne magrissime, perché hanno comunque paura del giudizio sociale, la donna è ancora uno status symbol, no? Ma può esserci un essere come uno gli pare di essere, al di là del fatto che debba essere considerato oggetto del desiderio o oggetto di denigrazione o derisione? Non ho capito la derisione. No, se può esserci una via di mezzo in cui tu puoi sentirti quello che vuoi essere, senza che necessariamente la gente ti faccia la bavetta dietro, può piacerti o non piacerti, certo, o al contrario la gente ti fischia dietro e ti dice: oh, donna cannone, cose del genere. Ecco. Certo, semplicemente ribadendo il fatto che tu sei una persona, appunto. In televisione, ripeto, i miei stacchetti si chiamavano appunto cicciona, cioè i miei stacchetti, i miei blocchi. Non venivo mai, quasi mai presentata con un cognome. Io ero Caterina, il caso. Non mi viene a pensare che l'unica comica divertente, molto carina, ma che però aveva una figura non proprio standard, che era Geppi Cucciari, è il testimonial di un lassativo, hai capito? È chiaro, perché hai da dimagrire a forza di bifidus, chiaro, alla fine si dimagrisce. Ma io credo che bisogna provare a essere la versione più sana di se stessi. Io ho perso 30 kg comunque nel frattempo e sto continuando. Ti fa anche bene, onestamente, un po' sì, ti fa anche ma bene. Io lo voglio fare, però questo non mi impedisce comunque di essere tutto il resto. Cioè, è un'altra cosa che dico spesso, si danno troppe aspettative al dimagrimento. Si pensa, molte persone grasse pensano che quando dimagriranno avranno amore, lavoro, eccetera, eccetera. Tra bellezza, a volte si ritrovano delusissime perché sono semplicemente loro più magre e più sane, comunque, che è importante. Benedetta, fermala, Benedetta, buongiorno. Benedetta. Buongiorno. Taglia io 50. Ho 31 anni, chiamo da Palermo e sono una bella 50, ho un bel visino, tutto quello che volete, però poi alla fine arriviamo nei negozi e che taglie troviamo? Massimo 46. Ecco, esatto. Io quindi sono... devi andare nel negozio, ho scritto taglie forti. Esatto, ed è sbagliatissimo. Perché non fare? Ormai la società è cambiata, anche in America, ad esempio mia sorella è in Canada e mi dice che lì sono tutte belle, come insomma, non sono grosse. Quindi noi abbiamo delle taglie che vengono pensate, progettate per persone che non sono assolutamente non sono normali. Nate alle nostre latitudini. Fiorella, come la pensa invece? Ma io dico una cosa che è abbastanza scontata, ma che bisogna ribadire all'infinito senza stancarsi mai. Dalla scuola, dai tempi della scuola, bisogna educare, bisogna far capire a sti bambini, che poi diventano ragazzini, che è ciò che veramente hai dentro e ciò che sei. Perché io sento delle cose, io ho due figlie in età scolare, mi portano a casa delle cose che sono allucinanti, ancora peggio. Io ho vissuto la mia infanzia negli anni 70 e l'adolescenza negli anni 80, ma non ricordo che eravamo messi. Dobbiamo fermarci, abbiamo parlato con Caterina Cavina, Le ciccione lo fanno sempre meglio, che uscirà tra qualche giorno. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, pensatela come volete, non vi leggerò mai gli sms che mi stanno arrivando, sono veramente oltre le mie capacità di poter leggere.